e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. E ci siamo, diretta del venerdì sera a Resto Radio Convento in compagnia degli amici che vengono da... Piubega, grandissimi, siete la classe, ditelo voi. 1997. E che classe, ragazzi, che classe. Non è acqua. Giustamente. Non è acqua, è solo vino. Secondo me è la migliore, giusto? Direi di sì, direi probabile. Probabile. Chi l'avrebbe mai detto? Ma presentiamoci un attimo, ditemi i vostri nomi. Io sono Francesco. Francesco, aspetta, Francesco è quello che sembra il cantante dei Colors? Più o meno. Giusto, o meno. Ok, ecco. Tanto vi stanno vedendo anche con le webcam, quindi ecco, quello là, quello... Ciao mamma, ciao mamma. Tutto bene, ecco. E ricordiamo che tua mamma sta ascoltando in diretta a Risto Radio Convento. Esattamente, è l'una... Come l'una? Sono le due e mezza? Sono le due e mezza. Le due e mezza. Questo ragazzo ha il fuso orario in testa. Sì, si vede che è in diretta. Sono in Inghilterra io in questo momento. No, perché è l'orario di Piubega. Piubega è un orario autonomo. Un fuso orario diverso. Poi ultimamente diciamo che manca l'acqua. Finiamo la presentazione, esatto. Esatto. Stiamo cominciando a bere del vino perché l'acqua ormai scarseggia nella nostra zona. E quindi siamo venuti qui a cercarla, ma purtroppo non c'era nemmeno qui. Non c'è l'acqua al convento. E quindi siamo messi male. Poi abbiamo l'altro ragazzo, come si chiama? Giacomo, tu sei un po' fai il leopardo, no? Di solito, no? Esatto. Sei il poeta del gruppo? Giacomo Leopardi. L'anima della festa. Ah, sei l'animale della festa? Lui organizza i safari con tutti gli animali. È il leopardo della festa. Esatto, l'animale. Mi fai un ruggito? Si sente che animale, ragazzo, ecco, cuore sportivo, esatto. Ok, quindi tu sei l'animale da festa, esatto, del gruppo. Grande. E sei quello che ha organizzato anche? No, ho tentato di organizzare, però poi ho organizzato Vittoria. Vabbè, la nostra amica Vittoria, che salutiamo, ha preso tutto in mano. Esatto, giustamente è meglio che prenda in mano la situazione Vittoria, piuttosto che Giacomo, ecco. Sì, sì, no, tutto in mano. Esatto, diciamo che Giacomo è più autonomo, invece Vittoria è più, come dire, organizzativa. Esatto. Ecco, poi abbiamo Carlo. Carlo. Sono Carlo. Che è Carlo, lo sapevate? Esatto. Lui ciao, lui è diciamo lo speaker della festa. Ah, è lo speaker della festa, è vero. È molto intrattenitore. Diciamo, proprio. Lo sento. Quindi, cosa fai? Fammi un saluto a tutta la classe 97, a tutti gli amici. Beh, io saluto gli amici della classe 97 che naturalmente ci stanno seguendo. E attualmente web, quanti anni compiono quest'anno? Quest'anno 23. 23, pazzesco. Mamma mia. Sembra 23 anni fa che siamo nati. Ma guarda te. E a proposito, siamo venuti qui apposta nella tua web radio per raccontarti della leva. Vero, ecco, ragazzi? La leva, una tradizione che si ripete ogni anno nei nostri paesi. Nella nostra zona, soprattutto dell'Alto Mantovano. Basso Bresciano pure. E anche un po' di Cremonese. E anche un pochino di Cremonese, perché noi siamo a confine proprio con le tre regioni. In mezzo alle tre province. Province. Avete un po' di tutto, giusto? Esatto. Allora, fatemi un assaggino di Mantovano con qualche parolina tipica. Sì. Azzeta. Bresciano è un po' un fes. Il fes mantovano, il pota è molto bresciano. Il fes, esatto, è più bresciano, però mentre essendo dell'Alto Mantovano utilizziamo il fes comunque. Ah, lo usate lo stesso. Esatto. Ok, e la Z, cioè quella Z lì, come quella Z lì proviene soprattutto dal Mantovano, mentre nel bresciano, nella provincia bresciana, si trasforma in una S. Fatemi una frase in mantovano, dai, che così almeno dimmi uno spunto, nel senso. Carlo, vai che tu sei poligotolo. No, perché io anche stando anche a Verona a studiare, anche veronese, quindi qui è un casino, non mi ricordo mai. Sì, allora dipende, perché ognuno di noi comunque esce in una zona diversa della provincia. Ah, io dico, quindi Nuatar Somnach a fare l'aperitivo. Ok. Che è già di Castelguffredo, che è dell'alto alto mantovano. Mantovano, più invece vicino, che più verso Cremona, come lo dice? Cremonese noi niente. Allora, noi del non lo cremonese sappiamo, diciamo che non siamo tanto. Ah, non avete un io pensavo di fare un assaggino un po' di tutto, no? Diciamo che noi siamo più mix bresciano mantovano. Andiamo più col bresciano. Ah, andate più col bresciano, quindi andate di fesse pota anche voi. Esatto. All'accento può convertire, può diventare tipo un Porta figa, sono andata a fare l'aperitivo. Ecco, si vede che il cantante dei Color è più verso Brescia, lo vedo. Ecco, è più l'accento più bresciano, diciamo. Più rozzo. Carlo più impostato invece, più. Carlo più impostato e più mantovano, diciamo. Ecco. Prova Carlo in mantovano. Mi parla ad Castleggio, quindi il parlate tazze. E te ben, sono andata a bere il vin e le tette a zè. È vero, è vero, è diverso. Quindi diverso. Cambiamo, ogni paesino si comincia già a cambiare. Fantastico. Bello, ragazzi, bello. Vi siete accorti che le vostre colleghe stanno facendo i segni, tagliate. Sì, anche i cuori. Il vino arriva verso le 3:30, quindi... Sì, quindi, perfetto. Beh, ti finiamo... Sì. La storia della leva, tu sai cos'è la leva? La leva è quella che ha fatto scattare prima Vittoria in voi. No, ho sbagliato. Allora, la leva fa molto leva. Allora, diciamo che la leva è una ricorrenza, che è una tradizione dei nostri paesi, in cui tutti quelli che avevano 18 anni andavano a fare la leva militare. Ok. Quindi noi ci siamo evoluti, facciamo una leva più, diciamo, alcolica che militare. Più alto. La leva alcolica, ok, quindi vi levate. Ci leviamo il tasso alcolico nel sangue. Esatto. Ecco in cosa consiste la leva. Perfetto, esatto. Mi piace questa vostra tradizione. Che noi da quasi 5 anni. 18 anni la maggiore età, ragazzi, perché bisogna bere quando si ha la maggiore età. Esattamente. Ragazzi, e non guidate, mi raccomando. Nella settimana della leva bisogna mantenere il tasso alcolico superiore all'1,8. Se abbiamo anche il palloncino sopra l'1,8, allora non sei assolutamente in leva. Esatto. Giustamente. E allora vai a lavorare, quando che è meglio. Quando noi facevamo la leva, addirittura ci svegliamo con un brioche e una bella birra rossa fresca. E facevate una levataccia, allora? Esatto. A pranzo pasta col Bacardi. Mi sembra tipico. Il denti con che cosa ve li lavate? Con il crudino? Io me li lavavo con la sambuca. Con la vodka alla menta, altrimenti dipende un po'. Bravo, vodka alla menta, mi sembra perfetto. Sì, perché sembra il colluttorio. Il colluttorio invece lo bevevate, perché giustamente. Sì, era comunque l'antipasto. Perfetto. Mi piace, ecco. Ti aspettiamo, signori, prossima leva. Per tutti i diciottenni, vieni a ubriacarti con noi. Esatto, per tutti i diciottenni che vogliono andare a festeggiare come si deve, oltre che passare dal convento, devono andare a Piubega, che festeggeranno la settimana della leva. Esatto, verso settembre. La prima settimana di settembre, mi raccomando, ragazzi, tutti gli anni. Ok, in compagnia di Carlo, Giacomo e Francesco, che senza una paletta, tra l'altro. Francesco l'ha persa adesso. È l'unico che riuscirà a bere a bocca chiusa. Va bene, ragazzi, non vi siete accorti, ma è 8 minuti che stiamo parlando. Dobbiamo lasciare gli ascoltatori le bellissime canzoni, esatto, della vostra web radio, bellissima. Quindi ti ringraziamo per questo e questa bellissima buon esperienza. Sabato sera. Che è già domenica. Sì, ormai è sabato, perché era venerdì prima. Adesso noi siamo più avanti. Le due. Esatto, è vero, hai ragione. Cioè, quindi hai ragione. Va bene, allora salutiamoci. Ciao, cantante dei Color, di nome? Francesco. Poi ciao. Cesco Pastorello su Instagram. Ok. Giacomo, chiamato Piccio. Per le fan di Instagram. Esatto. E io sono Carlo Veronesi su Instagram. Su Instagram, ok. Seguiteci. Perfetto. E seguite il convento. Grandi, ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao, grazie.